Alberto, dubito. Non sarà la gloria della noia di questa città. Non saranno i vostri fumogeni a farci vedere meno chiaro. Pesso i sanpietrini cercando di fargli il più male possibile. Difficile dire se tutto questo ha davvero il senso che volevamo dargli. Abbiamo fumato troppe sigarette insieme e sulla lista delle cose da fare potremmo adottare un tumore in comune e uno di quegli scatoloni abbandonati di fianco ai cassonetti. Per poi trasferirci a fanculo, via da qua e da questa città maledetta, da lei e il traffico delle 6 PM. Via dalle vie umiliate e mal illuminate, via dalla raccolta differenziata di sospiri e bestemmie della domenica mattina, che non vedo da mesi, via da queste camionette blu angosce e dai loro manganelli lungo via Gramsci. Non saranno le facce grigie a toglierci il sorriso, ma questo gomitolo di media e merda, questo va tutto bene e va pure sempre meglio, mixato al mio rimanere sveglio, per mille e una notte ad accarezzare con lo sguardo i quartieri addormentati, con gli occhi rossi e gonfi. I vostri trionfi sanno di plastica bruciata e di tutto quello che ci raccontate per mandarci a letto sicuri che domani andrà ancora meglio di oggi, anche se oggi al telegiornale ci avete detto che è andato tutto di merda. Non saranno le vostre perquisizioni a trovare quello che non troviamo nemmeno noi. Cani bastardi e bastonati, con la lingua lunga lunga tutta l'autostrada del sole, con le 24 ore sotto mano e ti chiamo ancora per chiederti come mi chiamo e per dirti che 24 ore ancora non mi bastano. E non sono i vostri lacrimogeni a farci piangere, ma questa continua voglia di niente e di poeti di merda che scrivono d'amore e delle balene arenate mille miglia lontano da qua, e delle loro esperienze tanto sensibili che delle loro sillabe intense non mi rimane mai un cazzo. Che tanto non saranno i vostri manganelli a romperci le ossa, ma tutto il lavoro in nero non pagato, e morti sul lavoro trasparente come l'acqua al cloro che ci permettiamo. Presto apriremo un'impresa per abbattere queste 10.000 chiese e i vostri sportelli per i giovani sputtanati, per poi addormentarci abbracciati e strafatti sul sedile posteriore di una Fiat Idea parcheggiata in doppia fila sopra le nostre pianure paranoiche. Ma prima di andare, dammi un solo motivo per non dar fuoco a tutto questo. Dammelo e giuro che metterò via la benzina e tornerò un poeta da mezza lira che parla del tempo e del poco parcheggio in centro. Non saranno i vostri colpi in aria a farci fuori, Sua Eccellenza, i cadaveri non volano. Non saranno i vostri spari accidentali a farci fuori, o questore, le pistole non respirano. Non sarà la vostra illegittima difesa a farci fuori, signor dottore, un diciottenne coi testicoli spappolati a manganellate neanche si muove. Non sarà la noia della gloria di quest'Italia a farci fuori, perché fuori noi ci siamo già, e quello che vi fotte è che io sono più sincero, o almeno lo ero.